GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. L'Inter frena, la Roma vince e si porta a meno 9 dai nerazzurri dopo la 24esima di A. E mercoledì a San Siro, turno infrasettimanale con scontro diretto. A Genova finisce 1-1 tra Sampdoria e Inter, gol nella ripresa di Cassano e Crespo. Mancini a Sky Sport. La Samp mi sembra che in casa nelle ultime partite sono tante, credo che abbia sempre vinto, quindi è chiaro che ci aspettava una partita difficile, soprattutto poi perché venivamo dalla partita dei Champions, siamo andati sotto, abbiamo sofferto, abbiamo lottato e comunque siamo riusciti a fare un pari che ci sta, insomma. Mazzarri si coccola il ritrovato Cassano. Oh, è bello perché il ragazzo veramente si sta ritrovando, anzi a questo punto posso dire che si è ritrovato e gli vogliono bene tutti. Un gol di Sissigno regala alla Roma l'1-0 sulla Fiorentina. Spalletti pensa già all'Inter. A me mi sembra che la Roma abbia fatto un campionato grandioso fino a questo momento, bellissimo. E se l'Inter è 9 punti avanti è segno che è stata fortissima, quasi impeccabile, e 9 punti sono molti poi da recuperare. Pensavo di arrivare poi a questo livello di campionato e di non avere tutta questa differenza in classifica. Il Milan regola per 2-1 il Palermo e aggancia i viola al quarto posto. Decide Pippo Inzaghi al 90esimo. Palermo merita di più di quello che ha in classifica. È forte, ci ha reso la vita difficile. Abbiamo fatto soffrire i tifosi, però è bello vincere così. Il protagonista di giornata è il genoano Borriello, che fa tripletta nel blitz del Genoa, 5-3 in trasferta contro l'Udinese. Diventa capocannoniere con 15 gol con Trezeguet e incassa i complimenti del suo allenatore Gasperini. Ma lui è un giocatore importantissimo, poi io credo che la nostra squadra riesca ad avere i compagni che lo mettono anche nelle condizioni migliori, è veramente una novità importante di questo campionato. Una doppietta di Calaiò sigla il 2-1 del Napoli al Livorno, il presidente Campano De Laurentiis. E io sono soddisfatto perché Emanuele mi ha chiamato e mi ha detto: ti prego, ti scongiuro, mandami a giocare al Genova almeno fino a giugno e poi ritorno. Io ho fatto una richiesta volutamente alta a Preziosi, che è un amico, ha capito che la mia era una richiesta per dire no, guarda, non me lo levare. Gli altri risultati: Cagliari-Lazio 1-0, Empoli-Catania 2-0, Atalanta-Siena 2-2. Intanto, dopo le polemiche sulla sconfitta con la Regina e l'arbitraggio di Dondarini, la Juventus, domani impegnata nel derby col Torino, anticipo del turno infrasettimanale, ha scritto una lettera aperta ai vertici di Federcalcio e Assoarbitri chiedendo un intervento a garanzia della regolarità del campionato. Il presidente dell'Assoarbitri, Gussoni, al TG1. Consiglio a chiunque di non prendere mai decisioni a caldo in un momento magari di particolare tensione. No, è una lettera che non mi rifiuto di commentare. Per il basket, nella settima di ritorno vince la capolista Siena, vanno KO tutte le inseguitrici: Avellino contro la UP in Bologna, Montegranaro e Roma sconfitta da Rieti. Il reatino Bonora: se vogliamo vincere queste partite, ma non solo contro Roma, se giochiamo in questa maniera poi diamo anche delle soddisfazioni e ci divertiamo. Provato a far fruttare i 35 anni, poi dopo l'abbiamo vinta veramente tutti insieme. Vittoria anche per Varese, Cantù, Pesaro e Udine. Per la pallavolo, sempre nella settima di ritorno, Taranto batte Roma e Trento, che vince a Padova, diventa la nuova capolista. Successi anche per Treviso, Macerata, Cuneo, Milano e Montichiari. E chiudiamo con una storia che ci proietta già ai giochi di Pechino. A 13 anni si è qualificato per le Olimpiadi. Stiamo parlando di Thomas Daley, giovanissimo tuffatore inglese. Daley ha conquistato il passo olimpico col settimo posto ottenuto in Coppa del Mondo proprio a Pechino. Daley ha ora 13 anni e 9 mesi ed è campione nazionale della piattaforma da 10 metri. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport a partire dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.